Vi porto invece i saluti della nostra chiesa. Noi siamo in Abesozzo, in provincia di Varese, e insomma, come detto, penso che mi conosciate tutti, ma giusto per... io sono sposato con Miki dal 2000, quindi sono 23 anni, mi sono sposato nel 2000, così è facile tenere il conto, e poi siamo genitori di Alice, che ha 19 anni, Federica che ne ha 16 e Davide che ne ha 12. E Alice e Federica sono a casa, e cioè in realtà in questo momento sono in chiesa anche loro, sono coinvolte nel ministero e quindi siamo molto felici anche per questo. E noi siamo anche responsabili di adolescenti d'oggi, per questo che giriamo anche, abbiamo diversi contatti con tante chiese, perché il lavoro con gli adolescenti ci ha sempre portato a mantenere queste relazioni meravigliose. Neanche lo potevamo immaginare 30 anni fa, no? Che comunque quel lavoro che stavamo facendo avrebbe prodotto comunque così tante relazioni, così tante benedizioni che godiamo noi, ne usufruisce anche la nostra chiesa. Siamo veramente molto molto contenti. Grazie anche a Sara e Vito per l'ospitalità di venerdì, è sempre molto bello stare con voi, stare con la vostra famiglia. Sara ha per diverso tempo avuto una stanza personale a casa nostra, e quindi ogni tanto contraccambiamo, però veramente molto bello essere qua ed è bello condividere la parola di Dio, e questo messaggio è un messaggio che mi permetto di portare proprio anche perché per la relazione che c'è con la vostra chiesa, perché è un messaggio prettamente pastorale e non lo farei se non mi sentissi veramente accolto come pastore. E iniziamo anche a avere un po' quell'età in cui puoi anche, diciamo, condividere un po' di più di esperienza e di permetterti anche di condividere qualcosa in più, almeno poi vediamo, speriamo il pastore Mirko condivida. Allora, il tema di quest'oggi ve lo spiego con un piccolo aneddoto. Non so se voi amate i telefilm, ce ne sono tanti, le serie televisive, quelle che riguardano gli ospedali, i medici. Stiamo tutti aspettando a gennaio Doc che ritorna, giusto? Siete qui, ma so che con la mente siete già. E ci sono queste scene, no? Sempre molto... Io non sono un medico, per carità, però queste scene, che quelle che ti colpiscono di più sono quelle che stanno... C'è questo malato ormai agli ultimi, e c'è questa scena bellissima di quando devono usare il defibrillatore, si chiama, quello che, quindi c'è questa cosa qua, e tutti intorno, spostate, libera, quindi già questa parola libera per noi credenti già è una roba straordinaria, e quindi boom, che c'è questa botta e questo non reagisce, aumenta la potenza, più potenza, tutti via, boom, finalmente questo qui riprende, e dicono questa frase meravigliosa: l'abbiamo preso in tempo, l'abbiamo ripreso. Voglio parlarvi della riprensione, che non c'entra niente con questo, però era giusto per portarvi. Perché effettivamente è così, cioè la riprensione ha proprio questa... Lo riprendi perché sta per morire, sta andando in una strada che è complicata. E... in una delle strategie meravigliose, uno degli aspetti della vita cristiana che a volte facciamo un po' fatica, soprattutto nella nostra generazione, nella nostra società molto permalosa, molto hai sempre paura di dire qualunque cosa, dobbiamo riscoprire invece la potenza e l'importanza della riprensione. Voglio leggervi un salmo, che è il Salmo 141, versetto 1 e 2 dicono così: «O Eterno, io grido a te, affrettati a rispondermi». Già migliaia di anni fa ci avevamo fretta. Prego subito la risposta, però è anche vero che ci sono dei momenti in cui davvero abbiamo bisogno che il Signore risponda presto. E dice: affrettati a rispondermi, porgi orecchio alla mia voce quando grido a te. Giunga la mia preghiera davanti a te come l'incenso, l'elevazione delle mie mani come il sacrificio della sera. Va bene, questa è un'introduzione di questo salmo. Salmista sta dicendo: Signore, io non sono nel Tempio, mi trovo lontano, non posso seguire tutte le formalità, però fai in modo che la mia preghiera sia effettivamente come se stessi seguendo tutti i vari passaggi. E il Signore ci ascolta ovunque siamo. È straordinario essere in chiesa, è bello lodare il Signore tutti insieme, ma sappiate che in qualunque luogo voi siete, in qualunque posto vi troviate questa settimana, voi potete alzare le vostre mani, alzare la vostra voce, e il Signore ascolta la vostra preghiera, ovunque siete. E poi dice: O Eterno, poni una guardia davanti alla mia bocca, non permettere che il mio cuore sia attirato da alcuna cosa malvagia per commettere opere malvagie con gli operatori di iniquità e fa che io non mangi del loro cibo, dei loro cibi squisiti. Tutta questa urgenza di questa preghiera, quindi, non ha avuto a che fare con una domanda, con una richiesta di cose materiali. Vi rendete conto? Quanti di voi avete mai, oh Signore, affrettati a rispondermi a questa preghiera, aiutami a non essere coinvolto, a essere attirato dal male. Il salmista ha avuto questa urgenza, questo bisogno, ha sentito dentro di sé questo bisogno di dire, proprio di pregare con questa foga, non sta pregando per guarigione, vi rendete conto? Non sta pregando per una bolletta da pagare, non sta pregando per i figli, non sta pregando per il proprio cuore e sta dicendo, Signore, poni una guardia davanti alla mia bocca. Fai in modo che io non dica nulla di sbagliato, fai in modo che io non reagisca male, fai in modo che le mie parole non siano parole distruttive. Non permettere questa preghiera, chiesa straordinaria, che il mio cuore sia attirato da alcuna cosa malvagia. Noi come credenti dovremmo avere questa consapevolezza che non siamo mai troppo al sicuro dall'essere attirati dalle cose malvagie. E non sta parlando semplicemente della tentazione, noi subito pensiamo magari alla tentazione sessuale, alla tentazione di rubare, cose del genere, no, proprio del cuore che non venga attirato da pensieri distruttivi, da pensieri di fallimento, da pensieri di vendetta, da pensieri di gelosia, qualunque cosa. Dice, io sto pregando perché il mio cuore non venga attirato dal male. E noi, ve lo ripeto, come chiesa, come credenti, non dovremmo mai sentirci troppo al sicuro, troppo forti da questo punto di vista, perché il male ha una sua attrattiva. Il cinismo ha una sua attrattiva, il disfattismo ha una sua attrattiva, la lamentela ha una sua attrattiva, il pensare male, il pensare negativo ha una sua attrattiva, un certo tipo di malinconia ha una sua attrattiva, ma fate attenzione, vi stiamo perdendo, se vi andate troppo in là con queste cose, parlo anche a me stesso, il rischio è di perdersi completamente. C'è un male, quando Gesù ha insegnato sulla preghiera ha detto liberaci dal male, dal maligno. Gesù ci ha insegnato a pregare su questo. Noi preghiamo per tante cose e va bene, ma c'è questa preghiera che è molto importante. Fa in modo che il mio cuore non sia attirato da qualcosa di male. Certo, nell'Antico Testamento spesso si parlava di liberarci dai nemici, erano nemici concreti perché facevano battaglie, guerre, ma per noi è un male che può annidarsi dentro il nostro cuore in maniera subdola e piano piano, come un piano, quando un piano lo inclini, tutto quello che c'è sopra piano piano scivola in tutta in una direzione. Basta poco, basta pochissimo. Ma se non te ne accorgi o se non c'è nessuno che te lo fa notare, che ti riprende, è un attimo. Sapete, Proverbi 1:10 dice, figlio mio, se i peccatori ti vogliono sedurre, non acconsentire. Sedurre vuol dire seducere, cioè portarti con sé. È una seduzione, è qualcosa che ti attira. E ti dice, se i peccatori ti vogliono portare con sé, tu non lo devi permettere. E noi, ve lo ripeto, non dovremmo mai sentirci così forti da pensare di non correre mai questo rischio. Proverbi 4:23 dice, custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. Custodisci il cuore, che è sede anche dei nostri desideri, dei nostri pensieri, naturalmente, proprio dell'atmosfera che viviamo nella nostra vita. Custodisci il tuo cuore perché è da lì che sgorgano le sorgenti della vita. Un'altra traduzione dice che sgorgano le soluzioni della vita, che sgorgano la capacità di superare i momenti difficili nella vita. In questi giorni, negli ultimi mesi, si parla molto della difficoltà anche degli studenti di sopportare la riprensione o momenti difficili. Perché? Perché in qualche modo non siamo abituati a sopportare che qualcuno ci venga a dire qualcosa. Però voglio farvi leggere alcuni versetti. Sempre questo Salmo, andando avanti, dice: mi percuota pure il giusto, sarà una cortesia, mi riprenda pure. Mi piace questa frase. Mi percuota pure il giusto, mi riprenda pure, sarà come olio sul capo. Il mio capo non lo rifiuterà, ma la mia preghiera continua ad essere contro le loro opere malvagie. Guardate che è un'espressione molto forte. Mi percuota pure il giusto, ma io non voglio essere attirato dal male. Io non voglio essere attirato dalle cose negative e prego che ci sia qualcuno intorno a me che mi aiuti a rendermi conto se la mia vita sta prendendo una piega sbagliata, una piega difficile. Questo salmo dà proprio il permesso al giusto di percuotere. A volte scherzo, dico alla Chiesa, quando battezziamo qualcuno dovremmo anche fargli firmare un foglio, come dire: autorizzo il pastore a percuotermi. Autorizzo da ora in avanti. Non lo puoi fare perché poi vengono le iene con le telecamere, tutto quanto, quindi... Per due motivi non lo facciamo. Uno, perché avremmo la Chiesa mezza fratturata. Tu cosa hai fatto questa settimana? Io ho avuto un pensiero negativo, il pastore è arrivato e mi ha tirato una... Mi percuota. E poi perché, vabbè, comunque è una cosa faticosa da fare, non possiamo farlo. Però... Però questa frase, no? Mi percuota pure il giusto, che ci sia qualcuno che ti ama così tanto da starti vicino e avere il coraggio di dirti quello che deve dirti, è una grande benedizione. È una grande benedizione. E qui dice proprio: mi percuota, sarà una cortesia. C'è una lezione molto importante in questo. Il nostro cuore ha un continuo bisogno di essere curato, di essere soppesato. Non date nulla per scontato. Vi leggo alcuni versetti importanti. E guardate, 1 Pietro 5, versetto 2 dice: pascete il gregge di Dio che è fra voi, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri. È proprio compito dei responsabili di chiesa sorvegliare. E noi confondiamo, adesso lo dirò, ma non è tanto le azioni pratiche, ma la parte più difficile di un pastore è riuscire a guardare il cuore delle persone e aiutare a curare il cuore. La forma, è molto più facile curare l'aspetto legalistico, come ti vesti, come se arrivi in ritardo, se arrivi presto, se arrivi tardi, sono tutte cose importanti che possiamo valutare, ma il cuore, quello è la parte più complicata. Quello ci vuole sapienza e saggezza. Ed è un compito che viene affidato proprio a chi cura la Chiesa. Proverbi 10:17 dice: chi custodisce l'ammaestramento sulla via della vita, ma chi rifiuta la riprensione si smarrisce. Chi rifiuta la riprensione si perde. Fa parte della vita la riprensione, fa parte della crescita spirituale. Se lo rifiuti, ti perdi. E guardate, questo riguarda sia chi è nato di nuovo da poco, conosce il Signore da poco, ma anche noi credenti da tanto tempo. E vuoi dire, venire a me, a dire a me? Guarda che se rifiuti la riprensione ti perdi. Chi ama la correzione ama la conoscenza, dice Proverbi 12, versetto 1. Ma chi odia la riprensione è uno stupido. Non sono io, parola di Dio. Poi dice... Proverbi 29:1, l'uomo che irrigidisce il collo quando è ripreso sarà improvvisamente spezzato senza alcun rimedio. Non siamo noi pastori a spezzarvi, è la vita. Cioè, se tu non ascolti la riprensione e vai in una certa direzione, prima o poi, improvvisamente, pagherai un conto salatissimo. Ma questo riguarda voi, riguarda anche me, perché la riprensione riguarda anche tutte le persone. È un atteggiamento. Poi dice Proverbi 9:8, non riprendere lo schernitore perché ti odierà, riprendi il saggio ed egli ti amerà. Ora, la riprensione, ve lo stavo accennando prima, non riguarda la valutazione, quello di cui stiamo parlando, non riguarda la valutazione tecnica di qualcosa, ho fatto male qualcosa. Se sbagli un accordo, io te lo devo dire, se sbagli un problema di matematica, l'insegnante che deve dirti? Quindi dicevo prima, c'è questo problema con gli studenti, no? Che alcune scuole stanno pensando di togliere i voti perché i ragazzi ci rimangono male. E quindi che facciamo? Il punto è che se prendi un 4, l'insegnante non ti sta dicendo che non vali niente, che sei uno stupido, che la tua vita non vale niente. Ti sta dicendo che hai sbagliato quella cosa lì. E te lo devo dire. La correzione tecnica, la correzione di cose... Se fai un esercizio in palestra e fai l'esercizio sbagliato, quello viene, quello che... Personal trainer, avete un personal trainer, se non ce l'avete è chiaro che la vostra vita viene e ti dice guarda che stai sbagliando movimento. Vito, so che noi non capiamo questo aneddoto, cioè lo faccio per quelli che vanno. Però non è che ti sta giudicando la vita e tutto quanto, perché abbiamo questo rischio. Pure vai a dire una cosa a qualcuno, questo tra marito e moglie succede, no? Succede qualcosa, tua moglie ti dice, e il marito, non ne faccio mai una giusta, la mia vita fin da quando vado all'asilo, che a Milano diciamo, vabbè, non si può dire una chiesa evangelica, è la Madonna, cioè stai dicendo, è una roba picca, cioè ti sto dicendo questa cosa qua, e in chiesa la stessa cosa, cioè prendo paura di dire, pastore Mirko, guarda, ma allora il mio ministero non funziona, io do le dimissioni, la miseria, ti ho solo detto che la sedia andava messa un po' così. E siccome abbiamo paura, non lo diciamo, aspettiamo che se ne va la metto a posto io. So che magari in questa chiesa non succede, ma succede nelle altre chiese, succede che hai paura e quindi non ci correggiamo mai, non ci... E poi quando riguarda il cuore è ancora più forte questo aspetto qua. È veramente difficile, però la parola di Dio è chiara che la nostra crescita dipende anche da questo. La nostra crescita dipende anche dalla nostra capacità di ricevere riprensione. La cosa importante quindi da comprendere è che la riprensione ha a che fare con il cuore e ha lo scopo quello di proteggere l'integrità del nostro cuore. Fin da Genesi, Dio ha creato il cielo e la terra, ma la parola di Dio ci dice che c'erano le tenebre che coprivano la terra, coprivano la faccia dell'abisso. Da sempre noi camminiamo in un crinale dove è un attimo scivolare nelle tenebre, scivolare nei pensieri bui, scivolare nei pensieri di sconfitta, scivolare nel vittimismo, scivolare nel pensiero che non valiamo niente. È un attimo. Ed è per questo che abbiamo bisogno di aiutarci gli uni gli altri. E la riprensione necessita questa vicinanza, di aiutarti, questo coraggio, questo amore. Ci vuole tanto amore per andare da una persona e parlarle, dire e aiutarla a rendersi conto che sta scivolando in una tenebra e nelle tenebre sono pericolose. Coprono la faccia dell'abisso, non sai mai dove ti porta a scivolare. E noi invece dobbiamo essere luce gli uni per gli altri. Voglio farvi alcuni... Prima faccio questo esempio per farvi capire la differenza tra un errore tecnico e il cuore. Mi devo concentrare perché faccio fatica su questo. Se tuo figlio o tua figlia ti dice se potrei io uccidessi il mio insegnante di matematica, ci sono due problemi. Uno, la lingua italiana. Che per me è proprio la cosa che mi sono dovuto concentrare, perché proprio noi siamo stati abituati bene dalla nostra prima figlia, perché Alice la prima frase che ha detto è stata se ci fosse del latte lo gradirei, perché lei proprio parlava già così, quindi siamo abituati a un livello molto alto. Poi in altri figli erano come me, normalissimi, quindi ci ha messo un po' a spiegare la differenza tra congiuntivo e condizionale, cose del genere. Quindi, però... Io, vabbè, svengo sull'errore del congiuntivo, quella è la prima cosa, però poi il problema del cuore è non puoi uccidere il tuo insegnante di matematica, cioè stai esprimendo qualcosa di negativo. Capite? È molto più facile correggere la grammatica, è molto così evidente, Ma ci vuole un attimo in più invece per correggere il cuore, perché devi capire se effettivamente vuole dire quello che ha detto, perché lo sta dicendo, e con attenzione, con tatto, lavorare su quell'area. Sono due livelli completamente diversi. E molte volte noi ci concentriamo sulla grammatica. Ma fate attenzione. Oppure copriamo tutto con una buona grammatica, ma il cuore si sta perdendo. Le motivazioni, stiamo perdendo le motivazioni. Dio con Caino, Dio quando Caino stava pensando che quello che ha fatto di uccidere suo fratello, Dio non è stato a guardare, Dio gli ha parlato. In Genesi 4, versetto 6, gli dice: perché sei tu irritato e perché il tuo volto è abbattuto? Se fai bene non sarai tu accettato, ma se fai male il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Dio è intervenuto nella vita di Caino, ma Caino non ha accettato la riprensione. Ma Dio ha visto chiaramente che il cuore di Caino si stava perdendo e gli ha parlato. Quando c'è stato Nathan con Davide, il profeta è andato da Davide, l'unico che ha avuto il coraggio di dire a Davide, perché guardate che quella storia con Bathsheba non è che fosse segreto, su Gerusalemme 2000 c'erano già le foto, c'erano articoli, lo sapevano tutti, però nessuno aveva il coraggio di andare dal re. Più sei in autorità e più è difficile parlarti, e basta che sei sposato, sei già in una posizione di autorità di un certo tipo. Se vivi da solo, se sei, l'autorità non è semplicemente il fatto che sei pastore, ma quando inizi a crescere è difficile che le persone abbiano il coraggio di venirtelo a dire. Ma Nathan ha avuto il coraggio di andare dal re e dirgli: guarda, gli racconto un aneddoto, adesso non voglio entrare in tutta quella storia, però guardate che ci è voluto coraggio e anche molto amore da parte di questo profeta di andare dal re e dirgli: guarda che tu stai sbagliando. E grazie a Dio che lo ha fatto, perché Davide in quel momento si è reso conto, lo Spirito di Dio gli ha parlato e ha cambiato. Caino no, ma Davide sì. Davide ha compreso quello che stava accadendo. Ma ci sono altri esempi. Adonai, non so come nella vostra traduzione, in Prima Re capitolo 1, versetto 5, dice che Adonia, che era figlio di Davide, figlio di Agit, una delle mogli di Davide, insuperbitosi diceva: sarò io il re. E si procurò carri, cavalieri e 50 uomini che corressero davanti a lui. Io te lo dico, 50 uomini che corrono con te, che ti danno sempre ragione, li troverai sempre. Ma sono uomini da nulla. Sono uomini da nulla. Persone che ti danno sempre ragione le troverai sempre, soprattutto che se fai cose così stupidate, devi capire chi sono le persone sagge, devi circondarti di persone che abbiano il coraggio di dirti: guarda che stai facendo una cretinata. Guarda che questa cosa qua non è la cosa giusta. Tra marito e moglie dobbiamo avere questo coraggio anche di ascoltarci attentamente, di essere uno specchio reale l'uno per l'altro. Nei leader, noi come pastori sappiamo che non puoi avere soltanto uomini che ti dicono, uomini e donne che ti dicono sempre di sì. Devi avere anche quel rompiscatole che ti dice: ma pastore, ma... E poi la volta dopo lui non c'è più, perché tanto... No, scherzo. Però... Ovviamente poi sei tu che decidi. Però avere questa libertà di poterti dire: secondo me questa cosa qua, certo che se sempre no, va bene, dopo un po', però lui ha trovato questi 50 uomini. Suo padre non l'aveva mai rimproverato in vita sua dicendogli: perché fai così? Mai rimproverato. Non esiste, è impossibile. Mai rimproverato vuol dire non l'ha mai ripreso, mai qualcuno gli ha mai detto, suo padre non gli ha mai detto: ma perché fai così? La riflessione. Ma perché stai... E la riprensione ti porta proprio a questo, la capacità di pensare, riflettere, dire: ma perché sto pensando in questo modo? Ma perché il tuo cuore vuole questa cosa che è sbagliata? Ed è straordinario, perché poi dice che Adonia era bellissimo ed era nato dopo Absalom. Adonia era bellissimo. Sapete perché molte volte noi non espugniamo il nostro pensiero, non diciamo qualcosa? Perché la situazione è così bella. Non vogliamo rovinare le relazioni, non vogliamo tensione, non vogliamo con i nostri figli a casa l'ennesima discussione. lasciamo andare, vediamo poi come va. Questo bimbo era così bello che il padre, il re Davide, non aveva mai avuto voglia di correggerlo, mai pensiero di... No, ha lasciato andare le cose. Però poi c'è stato un momento in cui, vedete, la riprensione ti aiuta anche ad avere la pazienza, perché Adonai praticamente poteva diventare re, era figlio di Davide, ma non era il tempo, non era la volontà di Dio, non era quel momento di agire in quel modo. Lui non ha avuto la pazienza di aspettare. Quando noi non riprendiamo mai i nostri figli, o quando non c'è nessuno che ci dice un no, noi cresciamo con l'idea che ci è dovuto tutto e subito. Ed è uno dei grandi problemi anche nelle relazioni tra uomo e donna, tra ragazzo e ragazza, nelle violenze che ci sono anche tra ragazzo e ragazza. Quando la ragazza dice di no, se un ragazzo non è abituato ad incassare un no, e diventa difficile da gestire la situazione, perché non sei abituato a sentire dentro di te questi sentimenti, queste emozioni, e le esprimi in maniera sbagliata, molte volte con violenza. È importante, è davvero importante. Era bellissimo e Davide non è intervenuto. Vogliamo evitargli dare fastidio Però ricordatevi anche il passaggio di Ebrei, non sto a leggerlo perché credo che lo conosciamo, ma Ebrei dice: voi avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come figli, figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perderti d'animo quando sei da Lui ripreso. Mi piace questo perché riguarda proprio quello che ho detto prima. Abbiamo paura di riprendere le persone, di dire qualcosa, perché si perdono d'animo. Non sono in grado di gestire lo stress o la frustrazione di un qualcuno che ti dimostra, che ti parla e ti dice: guarda che c'è qualcosa che non sta andando bene. Forse sei attirato dal male, sei attirato da qualcosa che non fa bene per te. Ma voi vi rendete conto che Gesù stesso, da 12 anni, si è permesso di rimanere a Gerusalemme senza dire niente ai suoi genitori? E sua mamma è andata lì e gli ha detto: ma come mai fai questo? Perché fai così? Perché ti comporti così con noi? Noi eravamo preoccupatissimi. Vedete che la riprensione non è peccato. Riprendere qualcuno non vuol dire che per forza ha peccato. Gesù non ha mai peccato. Però Gesù ha ascoltato e da quel momento, dice la parola, è rimasto sottomesso e ha atteso il tempo giusto. Ha aspettato il tempo giusto. Non era il momento per lui. Doveva ancora imparare a casa, stare a casa, in sottomissione. Se Gesù ha avuto bisogno di questo, quanto più noi, i nostri figli, nella vita che viviamo quotidianamente. Ci siamo, Chiesa? Vi aiuta tutto questo? Altri due esempi importanti. Va bene, uno molto veloce, Giovanni Battista con Erode. Che coraggio. Tu non puoi stare con la moglie di tuo fratello. E poi c'è Paolo con Pietro. Paolo a un certo punto riprende Pietro. Due uomini di Dio, ripieni di Spirito Santo. Non c'è niente di male. Pietro non ha abbandonato il ministero dicendo: vedi, non ho capito niente, questo che è arrivato dopo di me non è anche conosciuto Gesù, viene da me, mi riprende, non valgo nulla. Uomini, so che voi non fate mai questi pensieri, parlo agli uomini perché noi siamo molto permalosetti, noi del nord, siamo molto permalosetti, quindi difficile dirci qualcosa. E invece Paolo va da Pietro, la sapete questa storia, potete leggerla nel libro degli Atti, e va da Pietro e lo riprende. E poi Paolo spiega bene questo in Galati capitolo 2, dice: quando Pietro venne in Antiochia, io gli resistei in faccia perché era da riprendere, perché si è lasciato trascinare dall'ipocrisia, questione di cuore. Non lo ha ripreso per dei congiuntivi o perché ha sbagliato la declinazione, no, per il cuore. Ma voglio concludere con un altro momento molto importante, che è quando Gesù, alla fine del Vangelo di Marco, si presenta ai suoi discepoli. Due versetti. Marco 16, versetto 14, dice: infine apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore. Quando dice che li rimproverò, quella parola è una parola molto forte. Noi la traduciamo in maniera così delicata, non so voi come ve la immaginate, ma lì vuol dire che Gesù era proprio arrabbiato. Va dai discepoli, era proprio... li rimprovera, nel senso che proprio altro che scossa, ha detto: ma voi siete fuori, ma com'è possibile? Ma proprio voi, cioè, siete stati 3 anni con me, non potete? E la cosa più importante del nostro cuore, cioè di cui dobbiamo proprio stare attenti, la durezza. Li è rimproverati per la durezza di cuore. Se il tuo cuore è duro, non può credere, non può ricevere. E gli ha detto: la durezza, quella parola, scleros, quella parola indica una durezza che non è immediata, è come un callo, no? Uno sfregamento della nostra pelle continuo, che a un certo punto la pelle per reagire si indurisce. A volte la vita è così, tante piccole cose non te ne accorgi, un giorno dopo l'altro, situazioni che si ripetono, e a un certo punto il tuo cuore diventa così duro, incallito, che non è in grado più di credere. Credi nel Signore, ma non sei con quel cuore così aperto da dire sì al Signore, a tutto quello che ti dice, a essere pronto a camminare sulle acque. E Gesù aveva questo problema, ha detto: oh, io ho scelto voi, non potete rimanere così. Chiesa, Dio ha scelto voi, qui a Modugno ha scelto voi, in questo luogo. Fate attenzione al cuore. Non potete, lo so che la vita è difficile, so che viviamo situazioni dolorose, so che viviamo, sapete, molte volte ci induriamo semplicemente perché abbiamo delle pretese, pretendiamo che la vita funzioni in un certo modo e invece va in un altro. Che facciamo? Ci lamentiamo, induriamo il nostro cuore, tanto vanno sempre così. Fai attenzione. E Gesù li rimprovera, e la cosa meravigliosa, dice: li rimproverò perché per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a coloro che avevano visto, che lo avevano visto risuscitato. Loro non avevano creduto alle testimonianze degli altri. Ha detto: come facciamo qua? Perché voi adesso dovete testimoniare proprio questo. D'ora in poi sarà così. Chi crederà? Non crederà più perché vedrà Gesù fisicamente, ma attraverso la testimonianza. Quindi dovete smuovervi. E poi dice... subito dopo, versetto 15: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo. Per concludere, la riprensione ha proprio questi passaggi. Gesù ce li dice in maniera, ce li fa vivere in maniera molto molto semplice, velocissimo. Il rimprovero deve essere breve, anche quando riprendi qualcuno. E la miseria non è che puoi ripartire dall'età di quando aveva 4 anni, da quando sei qui in chiesa che io ti ho detto questo, ma ti ricordi? No, Gesù li ha rimproverati velocemente, ok? Questa cosa qua non va bene, veloci. Poi specifico, questa cosa qua, brevemente dico, è questa cosa qua che non va bene, e poi ravvicinato del tempo. Non puoi rimproverare qualcuno per quello che ha fatto nel 2013, perché non abbiamo mai avuto modo di incontrarci. Le cose, quando vengono lasciate lì per troppo tempo, si ingigantiscono. Ma poi la cosa più bella, alla fine Gesù ha riconfermato la sua fiducia. Andate per tutto il mondo. Il rimprovero non è per dirti che non sei capace, ma il rimprovero è per dirti che abbiamo bisogno di te e abbiamo bisogno che tu creda e che porti il Vangelo ovunque andrai. E noi dobbiamo ricordarci sempre di questo. Anche quando parliamo a qualcuno, alla fine riconfermare sempre la nostra fiducia. E Gesù ha fatto proprio questo. Amen, Chiesa? Possiamo alzarci in piedi un attimo? Adesso il pastore Mirko passerà con una mazza. Alleluia. Voglio rileggervi questi due versetti del Salmo 141, non rileggervi due versetti, ma leggervi due versioni alternative, due traduzioni diverse. Del Salmo 141, versetto 5, dice: mi percuota pure il giusto, è amore, e mi rimproveri, e l'olio finissimo che il mio capo non rifiuterà. ma la mia costante preghiera sarà contro le loro malvagità. Un'altra traduzione dice: il giusto mi riprenda e mi corregga con bontà, non rifiuti al mio capo quest'olio prezioso, in mezzo alla malvagità non cesserà la mia preghiera. E io voglio pregare con voi questa sera, cioè questa sera, questa mattina, e finiremo prima di sera. Voglio pregare perché credo che molte volte abbiamo rifiutato di ascoltare l'amore di alcune persone intorno a noi che ci hanno amato e hanno avuto il coraggio di venirci a dire qualcosa. E voglio pregare anche perché abbiamo bisogno tutti di avere un cuore morbido. Non so se c'è qualcuno che ha il cuore indurito, ma io voglio proprio riprenderti oggi, darti una scarica dal cielo per dirti: ok, è successo quello che è successo, va bene, non è andato come pensavi tu, tutto quello che vuoi, è vero, hai sbagliato, hai reagito male, sei ricaduto magari nei pensieri sbagliati, però il Signore vuole riconfermarti la sua fiducia e dirti ancora: vai, realizza quello che ho messo nelle tue mani, fai fruttare il regno di Dio nelle tue mani, cammina sulle acque, affronta i giganti, perché ciò per cui io ti ho creato. E il tuo cuore è in grado di credere, di ricevere la parola di Dio e credere, alleluia, e di portare frutto. Amen, Chiesa? Chiudiamo un attimo i nostri occhi, preghiamo insieme. Alleluia, Padre. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Proprio all'inizio Pastore Mirko ha pregato dicendo che il Signore ci ha trasportato dal regno delle tenebre al regno della luce. Io voglio collegarmi a questo e dire ancora: il Signore ti sta chiamando a vivere nella luce. Lascia andare i pensieri bui, lascia andare i pensieri di sconfitta, lascia andare i pensieri di arresa, di pensare che non vali nulla, perché sei stato ripreso, perché le cose non sono andate come tu pensavi. È tempo di rimettersi in cammino, di lasciare tutto alle spalle, di camminare in questa nuova vita, in questa nuova benedizione che Dio ha messo davanti a te, e di mantenere il tuo cuore morbido. Di mantenere il tuo cuore morbido. Credere è una scelta. Credere è una scelta. E io prego, Padre, questa mattina perché ogni persona in questo luogo possa sentire il tuo amore, tua presenza, il tuo desiderio che ognuno di noi si rimetta in cammino con gioia, pronto ad affrontare ogni situazione, consapevole che siamo circondati da fratelli e sorelle che ci amano così tanto da avere il coraggio di venirci ad aiutare, di venirci a parlare, di aiutarci anche ad aprire gli occhi quando stiamo sbagliando e quando stiamo lasciando andare a pensieri delle tenebre. Noi vogliamo camminare nella luce con i nostri piedi, ma anche con la nostra mente, i nostri riflessioni, i nostri progetti. Io benedico, Padre, ogni mio fratello, ogni mia sorella in questo luogo e prego perché trovino persone che li amino così tanto da avere il coraggio di andare a parlare, di interessarsi di loro quando è il momento giusto di farlo. Nel nome di Gesù. Amen.